capita mai di cacare in giro, nel senso andare proprio nei boschi, a contatto con la natura, per sentire la brezza che ti accarezza le chiappe mentre stai sfornando un tortino di merda? Ecco, immaginatevi noi, tutti quanti, migliaia di persone, decidiamo all'improvviso di andare nei boschi a defecare. Migliaia, forse milioni di mosche all'improvviso, dal nulla, arrivano direttamente lì, si attaccano al tuo stronzo da Guinness dei primati appena sfornato e ti chiedi perché a così tante mosche piace mangiare le tue feci. Eppure sono maleodoranti, schifose, viscide, e non sai perché però loro piace mangiare la merda. Ecco, questa è la teoria della mosca. Quanti mangia merda e mosconi come Germano, che si cibano ogni giorno di muffa in modo malsano. Pesi mosca con le antenne, un presidente settantenne, tu ti godi lo spettacolo bloccato dalle transenne. La popolazione cresce smisuratamente e guarda un po' il tuo presidente mente, il tuo governo mente. Sfogati su un social network che sicuramente vende, tendi a risultare convincente appariscente. Ronzami lontano dai coglioni, sono un ragno intrappolato nella rete che assomiglia a un lercio bagno. Guardami il calcagno, ne ho pestata una bella grossa, pronto a commentare, attivare il senso di mosca. Nonostante tutti gli occhi che possiedi non ci vedi, sei sangue sopra una paletta, polvere sotto i miei piedi. Siamo masse di caproni che cinguettano e il surriscaldamento e il tuo menefreghismo mi spaventano. Mosche che le costole le vaffe fin dai piedi, ronzi sui miei stronzi, mangi feci dopo fremi. Non te l'ho vinta manco se ti schiaccio e crepi, sai che a mali estremi lo saranno anche i rimedi. Tu caga, prega, mangiati la merda. Tu caga, prega, mangiati la merda. Tu caga, prega, mangiati la merda. Tu mangiati la merda. Tu mangiati la merda. Branco di falsi amici, infami senza nome, smerzan buoni consigli e son consigli da coglione. Se ti impegni puoi vederli che emergono dalla terra, larve diventa mosche della specie mangia merda. Qui fa senso dilagante, troppa puzza circostante, troppa poca gente in fota e troppa in fota col contante. Demente vuole la botta, tocca da riene tante, una flotta di mosche in corsa per levarti le mutande. Smorzo lo schede tensioni, le tue fosche buone azioni, le tasche piene di feci, scamo i tuoi finti toni. Forse proprio il mondo odierno che crea questa indecenza, vi piace mangiar merda, io cago in abbondanza. Inquinamento sociale, fanno male tipo doglie, le friabili parole, fruscio che fan le foglie. Frasi dette sottovoce ma che alterano gli animi di ipocriti subette, raggiunte grazie a trampoli. Mosche che le costole le vaffe fin dai piedi, ronzi sui miei stronzi, mangi feci dopo fremi. Non te l'ho vinta manco se ti schiaccio e crepi, sai che mali estremi lo saranno anche i rimedi. Tu caga, prega, mangiati la merda. Tu caga, prega, mangiati la merda. Tu caga, prega, mangiati la merda. Tu mangiati la merda. Tu mangiati la merda. Io stronzo. Parla più piano e nessuno sentirà.